e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti e benvenuti. Allora, i denari... Non sta chiamando il gatto, eh? Sta sbaciucchiando tutti quanti, tutta la collettività all'ascolto. Allora, così mi indori la pillola, perché oggi io con Investire Informati non è che parli proprio di un tema così digeribile, un po' indigesto. Sai un po' i cracchettini bancari? Sì, ne ho sentito, ecco. Guarda, conosco una persona che, che ti ne racconta, parla. Esatto, quindi Monte dei Paschi e ancora le Venete, con tutti i provvedimenti che sono arrivati nelle ultime settimane, rifacciamo un punto della situazione su azionisti, obbligazionisti, risparmiatori, correntisti di queste banche, che tipo di situazione stanno vivendo in questo momento, anche alla luce del maxi piano di ristrutturazione che è stato presentato ieri di Monte dei Paschi, per cui tanti temi all'ordine del giorno. Potete già cominciare a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24. Invece io vi ho fatto già sentire. Non ci hai baciato casualmente. Sì, adesso poi vado a sbaciucchiare Deborah. Siamo in diretta Facebook e bacerò anche naturalmente gli ospiti che sono venuti qua a trovarci. E noi ci baciamo. Baciami ancora, baciami ancora. Tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Un uomo che io vorrei baciare, che bacio tutte le mattine idealmente quando lo leggo, è Massimo Gramellini, scrive: oggi, giornata mondiale del bacio, vi invito a pensare al bacio che non avete mai dato, all'amore a senso unico che tutti abbiamo vissuto e subito nella vita. 800 24 00 24, mi sembra che sia il modo migliore, meno male che esisti Massimo, per iniziare questa puntata in cui all'apparenza può sembrare frivola, ma che invece ha delle radici e delle motivazioni assolutamente scientifiche, perché baciarsi, ragazzi, fa bene e continuare a farlo fa ancora meglio. Il bacio ha degli effetti sia sulla nostra sfera emotiva, ma anche, attenzione, il bacio fa bene anche alla salute. Lo scopriremo baciandoci. 800 24 00 24 per raccontarci come invita Massimo Gramellini a pensare al bacio che non avete mai dato e all'amore a senso unico che avete vissuto o subito nella vita o state subendo. Gli ospiti di oggi: abbiamo con noi Maria Giovanna Luini, medico, comunicatore scientifico e scrittrice, bentornata, ti baci, riempirei di baci. Baci. Abbiamo però voluto anche un uomo. Perché, chissà come si trova stamattina qua. Ma lui si trova benone. È un uomo che fa andare la testa, che lavora sulla testa, la sua, ma è anche quella di chi si affida a lui. È un mental coach e quindi allena dal punto di vista mentale moltissimi atleti. Posso dire a 5 stelle, non si dice così degli atleti? Top. Ecco, dei top. E quindi potrebbe allenare anche noi, perché avremo tante considerazioni. Il bacio è anche... uno straordinario integratore di autostima e magari proprio baciandoci ce la ricostruiamo, ci mettiamo qualche cerottino. Ma intanto, Giovanna, il bacio fa bene, baciarci ci piace? Tantissimo. Chissà perché ci baciamo sulla bocca. Mamma, non ero preparata. Non ci siamo preparate. Perché non tutte le persone si baciano. Chissà, quando tu scegli una persona, io ad esempio Carmelo non lo bacio sulla bocca, no? Magari lui vorrebbe, ma io non posso. E fai male. Dovresti. Però, ecco, e poi come ci poniamo quando ci baciamo? Ci sono persone che ti incontrano, ti baciano, ma tengono il sedere in là. Cioè, quasi, ne parlavamo con Giovanni. Giovanni, perché? Spostano il baricentro. Prima di tutto un bacio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E... vedi come si fa a catturare subito la simpatia. Certo. Bisogna vedere come baci. Certo. Perché non è che possiamo prendere i baci da chiunque. Bisogna capire. Adesso lo proviamo. Bisogna anche capire di quale bacio si sta parlando, perché ci sono mille di tipologie di baci. Quindi Comunque tu mandi baci agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Alle ascoltatrici per prime. Giovanna, stavo pensando che è l'unica una delle poche cose piacevoli, il bacio, di cui si può abusare. Perché solitamente quando una cosa ci piace, arriva subito il medico e dice: mi raccomando, è poco. Non questo medico. Ecco, non questo medico, perché ciò che ci piace e ci fa bene, mettiamo insieme le due cose, non ha una dose limite, una dose soglia, bisogna sempre pensare anche a ciò che ci fa bene. Quanto al bacio, usiamo la bocca e riceviamo sulla bocca, al di là del fatto culturale è anche una questione di intimità, credo, perché è un accesso anche, se volete, all'interno nostro, molto simbolico. Comunque il bacio è un grande movimento di emozioni, ma anche di ormoni e di neurotrasmettitori, ne parleremo via via, ed è un grande modo per comunicare, per avvicinarci. Quanto al tenere il sedere indietro, rispettando i limiti di una ovvia fascia protetta, c'è anche una questione, se volete, anche lì simbolica. O do tutto il mio corpo simbolicamente all'altro per baciare, oppure ne tiro indietro una parte anche abbastanza simbolica, tutto sommato. Intanto il nostro numero verde è a disposizione, così come il numero per inviare messaggi e WhatsApp 349-238-6666. Giovanna attiva il bacio, tutta una serie di reazioni chimiche, perché è curioso che la ricerca sia andata proprio così ad indagare questo gesto che ha tanti significati. Sembra ogni tanto che i ricercatori si occupino di cose bizzarre. In realtà studiare il bacio e soprattutto tutte le reazioni chimiche che attiva è interessante anche e soprattutto dal punto di vista clinico, tanto che quando noi ci baciamo ci passiamo una serie di batteri, ma anche una serie di informazioni. Ma infatti ci sono due vantaggi grossi che poi hanno vie collaterali. Uno è l'immunità cosiddetta cutanea o mucosa, cioè della saliva. Noi ci passiamo anche dei mediatori immunitari, in verità, oppure anche i batteri o i virus, che però stimolano l'immunità dell'altro. Cioè noi in qualche modo facciamo il nostro bene e quello dell'altro proprio con uno scambio immunitario di cose, di microrganismi che ci servono. L'altra è una questione, se volete, più ormonale, però anche quelli sono tangibili, cioè gli ormoni esistono. Quando baciamo, riceviamo un bacio, in noi si scatena tutta una risposta che non è solo ormonale, ma diventa essa stessa immunitaria, e diventa per esempio cardiocircolatoria. C'è una risposta delle piccole arterie, una dilatazione, c'è una risposta del cuore. Perché hanno studiato queste cose i ricercatori? Perché i ricercatori si devono chiedere come mai si sta meglio o si sta peggio quando si fa qualcosa. I ricercatori devono porsi il dubbio del perché facciamo alcune cose. E in effetti si è visto che il bacio e, per altri versi, la carezza stimolano davvero una migliore risposta anche in caso di malattia. Questo lo sappiamo. È la carezza che il medico offre al paziente, la famosa carezza per guarire, che fu di Umberto Veronesi, è dare la propria empatia, ma anche comunicare con il corpo. Certo. Io ti comunico con il corpo. È chiaro che da medico non ti posso baciare sempre, verrebbe anche frainteso il gesto. No, certo. Però ti faccio sentire che ci sono e ti do parte della mia empatia e della mia partecipazione. Questo ti scatena una reazione fisica. Parliamo di bacio nella giornata mondiale del bacio, ma parliamo di gesti che ci fanno stare bene nel riceverli, ma nel darli. Giovanni, tu lavori anche su questo aspetto. Sì, noi lavoriamo tanto su questo, perché questi gesti possono essere degli attivatori di autostima, di fiducia personale. Io ai miei atleti spesso faccio abbracciare gli alberi. Ad esempio, anche io li abbraccio quando non sono nei giardini, ma sono negli spazi bene, aperti. Ma non ti può sembrare una cosa sciocca, invece è una cosa che ha un valore molto importante anche di conoscenza del sé, conoscenza dei propri limiti, anche la capacità di rischiare, perché abbracciare l'albero comunque devi sviluppare un po' anche di autoironia verso te stesso, perché dice: mi hanno sempre detto di non essere stupido, non lo faccio, ne trovo tanti. Certo. E invece poi quando si comincia a abbracciare un albero si comincia a capire tante cose anche di sé, si capisce, si aumenta un po' la zona di rischio. Abbiamo iniziato a parlare del bacio che non abbiamo dato, che non ci hanno dato, o anche del primo bacio. Voi vi ricordate il primo bacio o vi ricordate solo la persona con cui avete iniziato questa carriera di baciatori? Io ricordo perfettamente il primo bacio, poi visto che non sono mai tanto legata al passato, cerco di non portarmelo dietro come se fosse una casa aggiuntiva sulle spalle, penso sempre al prossimo, però mi ricordo bene il primo bacio, è stato molto bello. Io mi ricordo la persona. Tu? No, io ricordo entrambe le circostanze. Anche la circostanza precisa. Sì. Non voglio fare questa domanda, Giovanni Gabrielli. perché c'è... Devo dire, com'è che si dice uno che ha fritto tanti polipi? Ma avevano detto, ma secondo me è così. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi avrò bisogno dei vostri baci, ma sarà una cosa lunga. A tra poco. Cuore e denari. In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto. Pablo Neruda. Senti che anche Mario Nutarelli ha accompagnato in un bacio, c'è un po' di, vero? Enfasi e si allunga un po', bacio. Allora, andiamo a Mimmo da Napoli, forse abbiamo un baciatore, 800 24 00 24. Benvenuto Mimmo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ho 53 anni, sono di Napoli e sono un baciatore. Bravo. Devo dire subito che quelli della mia generazione, lo dico con un po' di nostalgia, perché quelli della generazione di oggi badano a cose molto più pratiche. Noi badavamo molto ai baci nella nostra generazione. È vero. Quando guardavamo una ragazza e desideravamo farla nostra, la prima... Lei nel più bello mi è caduto, Mimmo. È vero. Sì. Allora, ma noi, secondo voi, i nostri figli, Mimmo, intanto lo recuperiamo perché, insomma, tra l'altro è uno che di baci, secondo me, se ne intende. Esatto. Secondo voi, i nostri figli... hanno nei confronti del bacio lo stesso coinvolgimento, lo stesso desiderio che avevamo noi? Mimmo ha detto una cosa, secondo me, molto, molto vera, perché la nostra generazione sul bacio puntava molto e intorno al bacio creava romanzi. Giovanna e poi Giovanni. A me viene una Giovanna domanda. Giovanni e Giovanni. Esatto. A me viene una domanda e poi sentiamo Giovanni. I nostri figli cosa hanno visto dei nostri baci? Perché in realtà non è una cosa che si spiega, è una cosa che si impara, si vede, si riceve. Che bellezza hanno visto dei nostri baci? Ci sono coppie che con il passare del tempo non si baciano più. Io, a proposito di ricerca, sono andata a vedermi una ricerca curiosa che dice che gli uomini, poi tu me ce la spiegherai perché poi bisogna sempre andare un po' ad addomesticarle, gli uomini che baciano le mogli prima di andare al lavoro guadagnano anni di vita, naturalmente non per il bacio della moglie, ma perché generalmente si è pensato che questo campione che hanno analizzato avesse uno stile di vita più sano, quindi buone relazioni, buona intesa coniugale, probabilmente avrà fatto colazione. Però è curioso, quindi fate ancora in tempo, domani iniziate a baciare vostra moglie, non si sa mai. Beh, considera che ci sono alcune filosofie per lo più orientali che dicono che guadagna più soldi, ha un lavoro più remunerativo e soddisfacente chi ha buone o felici relazioni personali e intime. Per quello che io sono ricco. I polipi. No, però saranno i polipi. No, che per però ci sei rimasto un po' male sui polipi. Sì, non è un'immagine bella. A me invece mi piaceva molto. Comunque ti perdono. Va bene, grazie. No, io ti bacio. Penso che gli adolescenti, i giovani adulti di adesso abbiano nei confronti di tutto quello che è il romanticismo dell'amore una sorta di finta avversione. Cioè la gruppalità porta a essere molto più rapidi relazionalmente, un po' più asciutti, e quindi lo percepiscono come una dolcezza e una debolezza. Io credo però che poi quando sono loro nella loro intimità baciano come potevamo baciare noi. Perché da che mondo è mondo il bacio. Però sono d'accordo con Giovanna che cosa hanno visto questi ragazzi di noi adulti quando ci baciavamo. Perché è un termometro importante della salute affettiva, emotiva e sessuale, anche di intesa sessuale della coppia, quando il bacio inizia viene dato solamente nelle occasioni e non è quotidiano, non ti viene voglia di girarti verso il tuo compagno e baciartelo perché ti piace, perché sei felice, che... oppure la stessa cosa anche con i nostri bambini, ecco, i bambini crescono a carezze e a baci, secondo me, non lo so, io sono stata, non lo so se sono stata una brava, ma io me le bacio ancora adesso, non sono tanto contente, ma ormai adesso hanno superato superato e accettano. Nel primo anno di vita bisognerebbe baciare molto, accarezzare molto, l'affettività, la sicurezza si sviluppa anche in questo. Sì, sì, assolutamente. E niente sostituisce questo tocco affettivo. Niente. Ecco, e soprattutto qual è, ancora una volta, ve lo chiedo, il gesto, poi possiamo continuare da parlare di baci perché abbiamo Svaldo, ma qual è quel gesto di cui sentite il bisogno, che vi fa stare bene nel darlo e nel riceverlo? Quella carezza che avete avuto da quella persona in un momento difficile, che improvvisamente magari vi ha toccato solamente la mano e vi ha detto ok, ce la facciamo, andiamo avanti. Osvaldo, e noi anche andiamo avanti con Osvaldo. Buongiorno. Buongiorno. Ma niente, io volevo dire che per quanto mi riguarda il bacio è la massima espressione che può esserci nel rapporto tra due persone, sia esso un bacio sentimentale o un bacio quindi amoroso, sì, o un bacio nei confronti di un figlio. Certo. Per me, io per esempio non potrei mai avere un rapporto amoroso con una donna senza poterla baciare. Ed è anche per questo che non posso tradire mia moglie, perché il massimo della, appunto, espressione del rapporto è secondo me quando la bacio. Ecco, vedi, persone bello, che si incontrano, ti è piaciuto. Molto. Grazie Osvaldo, saluti sua moglie. Ok, va bene. La saluto, salve. Grazie. Un ascoltatore ci scrive, purtroppo c'è anche la mononucleosi, cioè la malattia del bacio, e purtroppo c'è anche l'herpes. È vero, si rischia, ma noi tra poco parleremo anche di questo, dell'altro lato della medaglia, perché bisogna sempre trovare qualche cosa che in qualche modo inquina. Mononucleosi, Giovanna, è sì, una viene malattia, detta la malattia, diciamo, del bacio, sì, perché si passa proprio attraverso, sì, la saliva. C'è questo virus che si passa attraverso la saliva. Direi che però intanto non si tratti di una malattia pericolosa nella maggioranza dei casi, poi tutte le malattie tendenzialmente possono esserlo in condizioni rare, e capita, ultimamente ce ne sono tante, succede, è stagionale, dipende anche dal caldo, dall'umido, dal freddo, però insomma non credo che sia un valido motivo per non baciarsi, perché altrimenti, ecco, andiamo veramente verso una società totalmente priva di empatia e di amore. Ci faremo dare comunque dalla dottoressa Sparavigna, che ci raggiungerà subito dopo il GR, delle indicazioni e dei consigli per avere labbra da bacio. Lei è un'esperta, ha scritto questo bel libro sull'herpes, che a volte affiora proprio sulle labbra. Ecco, in quel caso astenersi per qualche giorno. Il bacio che abbiamo commentato, che è un po' su tutti i giornali, è quello di Ambra, sì, e Allegri. Sì. A me piaceva molto Renga, però ognuno bacia quello che vuole. E poi saluti e baci, anche Donnarumma ha detto ciao ciao, vi saluto, vi bacio, parleremo anche di questo sicuramente, perché in qualche modo c'entra anche con i baci e con l'autostima. Subito dopo il GR, vi ringrazio, tra poco. Cuore e denari. Come di 4.000 baci. Una puntata dedicata al bacio, ma non solo, a tutti i gesti che ci aiutano a stare bene. Ne stiamo parlando con Giovanna Luini e con Giovanni Gabrielli, li abbiamo scelti proprio così anche per i nomi, no? State bene insieme al bacio, naturalmente i nostri ascoltatori che stanno intervenendo all'800 24 00 24. Giovanna, gesti che curano. Sì. Abbiamo sottolineato l'importanza di educare anche i bambini con l'immagine di una affettività che è fatta anche di gesti belli, ma i gesti curano anche, e tu l'hai sottolineato, anche le persone anziane. Ricordiamo, sì, di abbracciare i nostri anziani, i nostri genitori, le persone malate quando li andiamo a trovare, perché c'è un effetto terapeutico del bacio, della carezza, dell'abbraccio. Ci sta entrando il nostro prossimo ospite, baciamo anche lui, vieni avanti, eccolo, chissà se oggi in occasione non vuole. Giovanna. Sì, il bacio scatena effetti terapeutici, ne abbiamo parlato, e soprattutto fa sentire accettati e amati. Se stiamo parlando di persone anziane, di genitori, anche di persone che soffrono per una malattia, il bacio, la carezza, il contatto fisico indicano anche una accettazione, ti accetto anche nell'imperfezione dell'età piuttosto che della malattia. Non è filosofia, è no. proprio far sentire l'altro in qualche modo accettabile in ogni caso. E infatti per le persone malate, le persone anziane, spesso il problema è non essere toccati. Non mi tocchi, quindi non vado bene. Giovanni. Sì, una cosa molto importante nei gesti, che poi non è un gesto, è l'ascolto. Noi non dobbiamo solo toccare o baciare le persone che ci sono vicine, ma dobbiamo ascoltarle. È la cosa, forse è il gesto di inclusione più importante. E se dopo aver ascoltato qualcuno diamo un bacio, facciamo una carezza, allora veramente scatta qualcosa di magico. Abbiamo parlato dei baci, del bacio del momento. Tu ricordavi anche quello di Fedez, vero? Sì, quando ha chiesto in moglie la Ferragni, pare che oggi sul sito di Repubblica, lo vedevo stamattina, sia considerato in questo momento proprio il bacio più rappresentativo del 2017. Prima di salutare la nostra prossima ospite, che ci dirà come, ci spiegherà come avere delle labbra da bacio, Giovanni, volevo commentare con te, è un po' fuori dal tema di oggi, ma mi era venuto in mente saluti e baci. Donnarumma ha salutato, non ha finito ed è partito. E questo per una persona che come te si occupa di atleti e anche per tutti i ragazzi che stanno lavorando su questi due fronti, che è lo sport anche a livello agonistico e l'impegno scolastico, non è proprio una notizia al bacio, direi. Guarda, io pensavo ieri che noi abbiamo lavorato tanto assieme nell'aiutare gli studenti ad approcciare correttamente l'esame, e poi ieri abbiamo letto questa notizia che Donnarumma, 18 anni, 30 milioni di ingaggio in 5 anni, non sto criticando lui, ha interrotto l'esame e volato con un jet privato a Ibiza. Prima aveva ottenuto una deroga a questo, all'esame, perché era agli europei, è già difficile avere deroghe, l'hanno fatto questa deroga e lui non è andato. È un bruttissimo esempio per tutti i nostri ragazzi. Ibiza, tra l'altro, luogo in cui i baci si danno a profusione, perché è un posto. E lui, ecco, non sto criticando lui, io sto criticando allora, la famiglia. Un messaggio, tradurre questa situazione a dei ragazzi, perché lo sport ci accompagna in una parte della nostra vita, la cultura e l'istruzione ci accompagna per sempre, quindi non dobbiamo mai lasciare perdere questo. Se posso aggiungere, chi ha una visibilità pubblica, qualunque visibilità pubblica, ha delle responsabilità, che abbia 18 anni o ne abbia 80. Quando diamo un esempio che può stimolare a comportamenti che non sono comportamenti sani o costruttivi, dovremmo fermarci e riflettere, perché esiste una responsabilità. Responsabilità è una parola che oggi si dimentica quasi sempre. Sono d'accordo. Hai visto, partendo dal bacio siamo arrivati a questo. Poi tra poco siamo già pronti e responsabili. Lo vogliamo salutare? Chissà se oggi ci dà anche un bacio. Nicola Borsi, buongiorno. No, io vorrei mandare un bacio ai risparmiatori coinvolti nelle vicende bancarie. Bravo. Un bacio di incoraggiamento, esatto, di sostegno. Che le devono affrontare tante presto. Un bacio, un abbraccio e anche un abbraccio di quelli che ti danno. Purtroppo qui serve un abbraccio di quelli belli stretti. Va bene, però ti rubo ancora un paio di minuti per chiedere alla dottoressa Adele Sparavigna, la nostra dermamica, che è in linea con noi. Buongiorno dottoressa Sparavigna, bentornata. Buongiorno. Lei è un'esperta non di baci, ma di pelle, di labbra, tra l'altro. Ricordo sempre il titolo dell'ebook Herpes labiale, in cui la dottoressa Sparavigna parla proprio di una sua nuova ricerca per trattare l'herpes labiale senza farmaci, e sta conducendo delle ricerche, quindi sta ruolando anche, chissà, magari qualche ascoltatore di Radio 24. Trovate tra l'altro un questionario proprio oggi sulle pagine del Daily Lab. Dottoressa Sparavigna, labbra da bacio, spesso le abbiamo un po' secche, ruvidine, a volte io ho un'amica molto vicina, non voglio fare i nomi ma la guardo al di là del vetro, che utilizza ripetutamente il burro di cacao, quasi una sorta di dipendenza. Non voglio dire il nome, ma è alta, lavora a cuore denari, è bella. Non sono io, no, è di là, l'abbiamo nominata tante volte. Dottoressa Sparavigna. Allora, Il burro di cacao vero e proprio si utilizzava una volta e adesso comincia a riemergere nei negozi di prodotti salutistici. In realtà sono dei balsami per le labbra che possono contenere anche burro di cacao, possono contenere burro di karité, argan. L'importante è che non contengano petrolati, che non contengano quindi la vaselina o addirittura i siliconi, perché questo può provocare anche quel fenomeno di dipendenza di cui si stava parlando. Ecco, quindi leggete, hai letto Laura? Ecco, ormai è lei. Leggiamo, l'avevo capito perché ormai la dottoressa Sparavigni è di casa, quindi leggete con attenzione gli ingredienti. Dottoressa Sparavigna, quando parlavamo del bacio, degli effetti del bacio, un nostro ascoltatore ha scritto, c'è anche la malattia del bacio. E subito dopo un altro messaggio, oddio l'herpes. Ecco, quando abbiamo le bollicine sulle labbra, meglio non baciarci. Meglio, bisogna stare attenti a non diffondere il contagio. Quindi asteniamoci, ma dura poco? Quanto dura? E allora, dura una settimana, ecco, la fase attiva, e soprattutto quando ci sono le vescichette e quando si rompono le vescichette, è lì che si libera il virus. Potete resistere? Dai, resistete, e intanto andate a leggervi l'approfondimento della dottoressa Sparavigna se volete saperne di più, essere arruolati in questa sorta di ricerca per dire addio ai farmaci e trattare l'herpes. Avete tutte le indicazioni, cercate la dottoressa Sparavigna. Qui chiedo anche di se ci sono delle modalità per prevenire il cosiddetto codice a barre, che sono quelle righe. Mi guarda Nicola, tu non ce le hai, Nicola, per questo tiri su gli occhi al cielo o perché sei preoccupato? Non ho capito la tua espressione. Io ce l'ho perché ho avuto un problema al labbro inferiore che ha avuto una rottura che è durata qualche settimana. Ecco, dottoressa Sparavigna, facciamo fare il test. Facciamo anche tu, fai il test. Dottoressa Sparavigna, queste righette che appaiono nel contorno labbra, su cui se le donne poi vogliono mettersi il rossetto finisce e non è bello, vero? Nicola, guarda, potrebbe diventare un esperto di cuore. Dottoressa Sparavigna, c'è qualcosa da fare oppure sono gli anni? Allora, sono rughette essenzialmente di natura muscolare. Noi abbiamo un muscolo che si chiama orbicolare della bocca, che è proprio ad anello attorno alle labbra. Quindi tutti quei movimenti che fanno contrarre in maniera eccessiva questo muscolo tendono a far formare queste rughette. La bocca del fumatore, fondamentalmente, quando si fuma si contrae molto il muscolo orbicolare delle labbra e quindi si sollecita anche la formazione di queste rughette. Quindi prima di tutto non fumare. Tra l'altro, a chi smette di fumare, io mi ricordo di una campagna bellissima che aveva fatto lei insieme alla dottoressa Serri, che noi ricordiamo perché ce la portiamo nel cuore, quindi è qua con noi, in cui avete dimostrato che smettere di fumare ringiovanisce, ma avete misurato anche quanti anni, dottoressa? L'età anagrafica della pelle, che si misura strumentalmente, si è ridotta in media di 12 anni dopo 9 mesi di stop fumo. Ecco, io vi lascio con questa comunicazione. Ecco. Dottoressa Sparavigna, grande, ringrazio e ricordo Herpes labiale, un titolo del suo ebook. Prima di salutarci, Giovanna e Giovanni, sembrate BB e Bibò. Io voglio chiudere e dare passare a un tema molto caldo. Nicola Borzi lo anticipava dicendo voglio dare un bacio a tutti i risparmiatori. Ecco, facciamo una sorta di collegamento, di passaggio. Ci rivolgiamo a queste persone che in questo momento, Nicola, sono veramente, la stanno vedendo davvero brutta, sono in una situazione di grande crisi. Le parole, gli abbracci, i baci servono a poco, ma qualcosa fanno. E noi ci crediamo. Quindi due considerazioni dei miei ospiti per traghettarci nella seconda parte di Cuore Denari. Io invito tutti oggi a dare un bacio o una carezza a qualcuno che sta in difficoltà e un bacio o una carezza a qualcuno che non ricambia. Io invece invito tutti gli ascoltatori e ascoltatrici a baciarsi e baciare se stessi. Noi molto spesso non baciamo noi stessi, baciamoci. Che vuol dire guardiamoci un po' allo specchio, guardiamoci dentro, siamo un po' autoindulgenti con noi stessi. Grazie, grazie mille baci a voi. Baci, vado a baciare tutta Radio 24. Vai, allora fatti anche dei selfie. Io vado a baciare i polipi. Va bene, se fritti, fritti dito, o con le patate, fritti o con le patate. Fritti. Ma nessuno ha mai sentito questa espressione? No. Guarda. Ma non me la sono inventata, me l'ha detto una mia amica di Galatina. Ogni tanto tu ne tiri fuori qualcuna. No, quelle della nonna sì. Quelle di nonna Candida, ma... Fantastiche. Una vera donna zen, allora, in tempi non sospetti. Voi mi avete traghettata, ma è molto difficile adesso andare ad affrontare il prossimo tema, però dobbiamo farcela perché qua stiamo parlando di migliaia di persone in tutta Italia. Allora, che naturalmente sono molto attente alle vicende delle banche venete che sono state poste in liquidazione coatta proprio pochi giorni fa, il 25 giugno, con un nuovo provvedimento del governo, e comprate per un euro da Banca Intesa San Paolo. Questa è naturalmente l'estrema sintesi di una vicenda che è molto più complicata. Poi abbiamo Banca Carige che vola in borsa con l'annuncio del piano di rafforzamento del capitale da 700 milioni di euro, e c'è stato l'atteso via libera da Bruxelles al piano di salvataggio di Monte dei Paschi, con la presentazione avvenuta proprio ieri del maxi importante piano di ristrutturazione della banca, che ricordiamole è sospesa dalle negoziazioni in borsa dallo scorso dicembre, ma ci sono molte obbligazioni subordinate in circolazione sulle quali già molti ascoltatori stanno scrivendo per avere chiarimenti. Cosa ci succederà? Insomma, gli italiani e le banche in crisi. È finita con queste novità o dobbiamo aspettarci vacanze incandescenti? C'è una dichiarazione proprio di questa mattina del ministro dell'economia Padoan, che ha detto, intervistato da un altro giornale radio, non il nostro ma da un altro giornale radio nazionale, ha detto: le banche devono fare il loro mestiere, con le misure relative a Monte dei Paschi abbiamo rimesso in carreggiata la quarta banca del paese, le banche venete sono state assorbite da Intesa San Paolo, che sicuramente non ha problemi di credibilità. Per il resto, ha detto, non ci sono sicuramente altri focolai di crisi come quelli che sono stati chiusi in questi ultimi giorni. Speriamo che sia così. Intanto abbiamo anche stamattina molti temi di cui parlare nella nostra trasmissione del giovedì. Investire informati. Intesa San Paolo si fa avanti per Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ma le condizioni che pone sono quelle di chi compra da una procedura di liquidazione. Che sia davvero un euro o poco più, il prezzo comunque sarà solo simbolico. Intesa San Paolo si è detta sì disponibile ad acquisire Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ma ponendo paletti molto rigorosi ed escludendo un aumento di capitale. Un euro, ripulitura completa dai crediti deteriorati, 10 miliardi di sofferenze, escluse le obbligazioni subordinate, le partecipazioni. Il giorno dopo il sì di Bruxelles al salvataggio del Monte dei Paschi di Siena, i vertici della banca hanno presentato il piano di ristrutturazione. Abbiamo fatto la nostra consueta carrellata dei principali telegiornali che proprio negli ultimi giorni hanno raccontato le ultime novità bancarie. Non ci abbiamo messo i nostri, naturalmente, perché speriamo che i nostri ascoltatori li abbiano ascoltati attentamente. Nicola Borsi, l'abbiamo già salutato, Plus 24 del Sole 24 Ore, ben trovato. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E poi la consulente legale che tu ascolti anche molto spesso per il giornale, che è la avvocato Letizia Vescovini, collegata telefonicamente con noi. Buongiorno avvocato e benvenuta. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicola, buongiorno Nicoletta. Interpellata più spesso anche nell'ultima edizione di Plus 24 del Sole 24 Ore, dove ha spiegato cosa succede con l'ultimo provvedimento con cui sono state appunto messe in liquidazione coatta le banche venete, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, e come a questo punto potranno attivarsi tutti gli obbligazionisti subordinati per rientrare, se possibile, appunto del denaro investito su questi strumenti di risparmio che loro ritenevano appunto sicuri, con la stessa procedura che era stata identificata un anno e mezzo fa per gli obbligazionisti subordinati delle prime quattro banche risolte: Etruria, Marche, Chieti e Ferrara. Per tutte le vostre domande 800 24 00 24, in alternativa scriveteci al 349 238 6666. Monitoriamo i messaggi, abbiamo anche naturalmente WhatsApp, per cui siamo pronti, proviamo a darvi delle risposte rispetto a questa situazione che ancora per certi versi manca di risposte, Nicola, perché negli ultimi pezzi proprio su della tua storia di copertina di Plus 24, sui nodi ancora da risolvere, ti soffermi a lungo. Allora, intanto ti chiedo, secondo te stamattina da dove dobbiamo partire? Ad oggi possiamo essere d'accordo con il ministro Padoan e stiamo tranquilli? Diciamo a tutti gli italiani di stare tranquilli e quindi tutti gli interventi radicali da fare in quelle banche in grossa crisi sono terminati o abbiamo ancora qualche conto in sospeso? Ma i britannici, comunque gli anglofoni, lo chiamerebbero un wishful thinking, cioè un pensiero positivo che si spera si realizzi. Io credo che ci siano ancora delle questioni sospese, magari non sono così enormi come quelle che c'erano qualche settimana fa. Ad esempio, una su tutte, il prezzo effettivo al quale andranno recuperati i crediti incagliati, le cosiddette sofferenze di tutte queste banche che sono in una situazione di predecozione. Peraltro stamattina Banca Carige sta ricorrendo di nuovo in borsa proprio perché ha collocato una fetta molto consistente di queste sofferenze, quindi sta andando avanti nella sua ristrutturazione autonoma proprio per evidentemente non finire in un'altra liquidazione coatta, Nicola? Io non credo che la situazione di Carige sia a rischio, almeno in base ai dati che conosciamo, di liquidazione coatta amministrativa o di burden sharing. Di sicuro l'istituto ha sofferto moltissimo, basta ricordare che gli azionisti di riferimento, quelli che hanno le quote più importanti all'interno della banca, come ad esempio il gruppo Malacalza, hanno perso percentuali vicine all'80% del loro investimento effettuato qualche tempo fa. Allora, prima di andare alla vicenda delle Venete, per la quale si è già attivato il procedimento di richiesta possibile di ristoro e di indennizzo per gli obbligazionisti subordinati, vorrei invece farti commentare un attimo su questo punto, appunto focalizzeremo particolarmente con l'avvocato Vescovini. Volevo chiederti invece un commento rispetto alla presentazione avvenuta ieri del piano di ristrutturazione di Monte dei Paschi, senza andare a raccontare naturalmente i dettagli del piano che oggi Il Sole descrive dettagliatamente: governance, esuberi, sacrifici degli obbligazionisti subordinati e stipendi dei manager. Facciamo proprio un punto relativo, Nicola, alla situazione di azionisti e di obbligazionisti della banca. Gli esuberi sono tanti, saranno effettuati nell'arco dei prossimi 5 anni, sono previste anche, qualche giornale lo segnalava con cura, 500 nuove assunzioni nell'ambito di questo turnover, e tra l'altro l'amministratore delegato Morelli ha anche detto si è fermata, questa è una notizia importante, l'emorragia di depositi che è andata avanti per tanto tempo, anzi certo, adesso con la garanzia dello Stato, esatto, in realtà le persone stanno quella fuga della liquidità che aveva messo in difficoltà seria non soltanto MPS ma anche le due venete che l'hanno pagata in maniera molto cara, si è arrestata. Io credo che ci siano delle situazioni che sono veramente paradossali. Credo che siano paradossali ad esempio le situazioni degli azionisti che hanno sottoscritto gli aumenti di capitale tra il 2012 e il 2015 di Monte dei Paschi. Ce ne sono stati tre? Sì, tre aumenti per un totale di 10 miliardi, sui quali, secondo la Procura di Milano e la Consob, ci sono state delle difformità tra la situazione presentata a bilancio civilistico e quindi di riflesso a prospetto rispetto alla rappresentazione dei derivati Alexandria e Santorini, derivati che venivano presentati come BTP e che BTP non erano. Ora, se questa rappresentazione è stata falsata, se c'è stato un, come dire, un misleading anche a livello di prospetto, mi domando perché chi ha sottoscritto quegli aumenti di capitale non possa essere ristorato, anche se azionista, anche se ha sottoscritto, come dire, una quota del capitale di rischio di questa banca. Certo. Forse lì si aspetta, Nicola, che le azioni tornino in contrattazione, perché c'è stata comunque un'apertura ieri da parte di Morelli che ha detto forse in autunno ne possiamo parlare. Questo magari è un capitolo ancora indefinito, sicuramente più definito è quello che riguarda invece gli obbligazionisti in circolazione, esatto, di Monte dei Paschi. Facciamo una cosa, fermiamoci, vi vado a raccontare la borsa di stamattina, poi ritorniamo su questi temi caldi, caldissimi, per i quali ancora chiedo agli ascoltatori se vogliono intervenire all'800 24 0024. Peraltro era già candidato ad intervenire un ascoltatore che adesso mi dicono dalla regia è occupato. Lui voleva raccontarci che con Monte dei Paschi ci ha perso metà del proprio patrimonio. Qua probabilmente è un azionista che paga lo scotto di non essere uscito in tempo da questo investimento, quando il titolo già l'anno scorso aveva perso praticamente più del 90% del suo valore nel giro di un anno, ma veniva già da livelli molto bassi, e poi improvvisamente all'inizio di dicembre la sospensione dalle negoziazioni, per cui patrimoni che diventano illiquidi, non più gestibili e non sono più nella disponibilità del risparmiatore. Ci sentiamo tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Eccoci ritrovati insieme. La puntata di oggi di Investire Informati in realtà è essere risarciti informati in qualche maniera se si è rimasti vittime di questi dissesti finanziari, di queste male gestioni appunto bancarie del nostro paese. Le ultime protagoniste di queste vicende delle quali parliamo sono Pop Vicenza, Veneto Banca, e poi stiamo commentando anche le notizie relative al piano di ristrutturazione annunciato ieri appunto dai vertici di Banca Monte dei Paschi. Ma a prescindere dal futuro della banca, quello che è il tema adesso è capire tutte le persone che hanno investito in passato in obbligazioni e azioni della banca come verranno ristorate e risarcite. Probabilmente si prenderà a spunto il provvedimento con il quale il 25 giugno il numero 99, Nicola Borzi appunto, sono state messe in liquidazione coatta le due venete, Pop Vicenza e Veneto Banca. E adesso chiedo ancora un minuto di pazienza a Letizia Vescovini, perché questo è un tema che conosce molto bene il nostro legale di questa mattina. Dicevamo a microfoni spenti una misura che però lascia molte aree di scopertura ancora importanti. Quali sono, dove il decreto secondo te poteva fare un po' meglio? Allora, leggo che in queste ore stanno cominciando le manovre parlamentari sulla conversione in legge del decreto. Qualcuno già ha introdotto ad esempio delle modifiche sulle responsabilità. Secondo me il decreto ha alcune pecche fondamentali. La prima, sarebbe bastato introdurre il rimborso degli obbligazionisti senior, quelli ordinari, al prezzo di acquisto dei titoli e non a 100, per evitare speculazioni anche molto ingenti, visto che i corsi dei titoli senior erano scesi anche a 65-70 nei mesi scorsi, evitando che lo Stato dovesse rimborsare queste speculazioni a 100. Sarebbe stato bastato dire: vi rimborsiamo al prezzo di acquisto dei titoli. Nessuno avrebbe perso nulla, nessuno avrebbe potuto speculare. La seconda, poiché il decreto evita alle banche il ricorso alle procedure concorsuali, con una strana esclusione, perché a quel punto se le avessero introdotte ci sarebbe stato il tema della bancarotta preferenziale, che rischiava di andare a carico di Intesa, che si prendeva tutto il buono, certo, e lasciava alle bad bank tutto il marcio. Qual è il tema? Escludendo le procedure concorsuali, qualcuno avrà buon gioco in sede processuale a dire: se non ci sono le procedure concorsuali non ci sono i reati da procedure concorsuali, e quindi non ci sono, in italiano, non c'è la bancarotta fraudolenta a carico di chi ha condotto le banche in questa situazione. Quindi signori come Zonin e Consoli sfangheranno anche questa situazione alla faccia di centinaia di migliaia di risparmiatori. Il tema che continua ad indispettire tutti gli ascoltatori e naturalmente anche noi è che, a fronte di queste situazioni così drammatiche, nessuno paga con azioni anche forti. Questo è il tema della copertina, esatto, di Plus di sabato, che dedicheremo ancora una volta alle questioni di queste risoluzioni bancarie, all'omessa vigilanza o alla insufficiente, inefficace vigilanza, e alle ricadute che tutto questo ha avuto per i risparmiatori italiani. Torniamo alle alle venete, Pop Vicenza e Veneto Banca. Allora, adesso andiamo alle procedure di indennizzo degli obbligazionisti subordinati di queste due banche, perché gli azionisti, ricordiamo già che lo stesso hanno perso tantissimo, sono stati protagonisti, tra virgolette, loro malgrado, non è che fossero proprio contenti di questa proposta transattiva di cui abbiamo parlato nei mesi passati. Quindi dobbiamo anche in questo caso dividere i risparmiatori di queste due banche in due grandi gruppi. Gli obbligazionisti subordinati, quanti sono di queste due banche, te lo ricordi al volo, Nicola? Non abbiamo un dato preciso, ma riteniamo alcune decine di migliaia. Certo. Avvocato Vescovini, queste persone seguiranno, per tentare di ritornare in possesso del loro denaro investito negli anni passati, seguiranno la stessa procedura degli obbligazionisti subordinati delle quattro banche risolte nel novembre del 2015, Etruria, Ferrara, Chieti e Marche. Quindi dovranno rivolgersi al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per recuperare quanto e a quali condizioni? Allora, esattamente, gli obbligazionisti subordinati potranno fare la stessa procedura riservata agli obbligazionisti delle quattro banche, quindi la possibilità di ricorrere all'indennizzo forfettario, che consente l'ottenimento dell'80% dell'obbligazione, qualora sussistono determinati requisiti, che sono appunto il patrimonio inferiore ai 100.000 euro e un reddito inferiore ai 35.000. Sono gli stessi criteri, diciamo, questi due parametri sono gli stessi degli altri. Esattamente. E per questo primo passaggio è previsto un termine molto breve, che è appunto il 30 di settembre. C'è pure la bella estate di mezzo, ecco, quindi ecco, tornando primo alla tema. Domanda di prima, diciamo che appunto è un'estate infuocata, perché questi poveri risparmiatori che da mesi o forse anche anni, nel caso dei risparmiatori delle quattro banche, aspettavano dei provvedimenti come gli arbitrati, si vedono poi ad avere pochissimi mesi a disposizione con l'estate in mezzo, e quindi insomma un po' di confusione in più tutto questo lo crea. Invece appunto per tornare all'altra misura, anche in questo caso è previsto l'arbitrato per gli obbligazionisti che non abbiano i requisiti che abbiamo detto in precedenza. L'arbitrato dovrebbe essere appunto disciplinato in modo simile a quello previsto per le quattro banche. Ma è partito, avvocato Vescovini? Allora, l'arbitrato sta attendendo che venga emesso il comunicato che doveva essere pubblicato dopo 30 giorni dal decreto precedente, che era il 30 luglio, con cui si fa una sorta di proposta agli obbligazionisti di definire il ristoro tramite questa procedura. Quindi c'è questa prima proposta formale che stiamo attendendo a giorni, da cui decorreranno 4 mesi per la presentazione della domanda di arbitrato. La domanda di arbitrato è una domanda complessa dove è necessario che siano articolati in modo puntuale le violazioni del testo unico della finanza, dei regolamenti CONSOB, volte a dimostrare la mancanza di trasparenza, diligenza. Quindi diciamo che chi deve praticare questa via ha bisogno che si porti lei, avvocato, accanto a compilare tutta questa baradda. Non può certamente fare da solo, immagino. C'è una banalità. Ecco, magari qualcuno è stato è una istruttoria vera e propria. Pensando che fosse una compilazione simile a quella dell'indennizzo diretto, in realtà ricordiamoci che il fondo si costituisce in questa procedura con una sua memoria ed è possibile l'intervento anche della nuova e della vecchia banca. Quindi è evidente che un risparmiatore da solo davanti a 3 fuochi finisce male. È necessario partire da subito anche con la richiesta di documenti, perché appunto per dimostrare tutte queste carenze la prova è pressoché documentale, quindi non aspettate gli ultimi 2 giorni prima della scadenza del termine, perché poi si arriva lunghi e non si riesce ad avere i documenti. Però insomma l'arbitrato ANAC, siccome è ancora in sospeso, ritorniamo agli obbligazionisti subordinati che invece possono chiedere l'indennizzo, il risarcimento, il ristoro, come vogliamo chiamarlo, al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Devono inoltrare la domanda entro il 30 settembre, a meno che, proprio considerando le vacanze e l'estate, qualcuno non abbia buon cuore di così prorogare un po' i termini. Nicola dice non pensateci per niente. Dopodiché devono ottenere una risposta rispetto alla validità della richiesta, giusto, come è successo nell'altro caso, avvocato Vescovini? Nell'altro caso si avvia questa procedura che può essere monitorata anche col codice della domanda sul sito del fondo, e si seguono alcuni step, dopodiché la pratica va in liquidazione e viene erogata la somma. Sì, dopo devo dire che effettivamente per la prima tranche di obbligazionisti subordinati sono stati anche abbastanza veloci i gestori del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi con le pratiche. Insomma, se avevano tutti i requisiti, rispondevano a tutti i requisiti, per l'appunto li hanno liquidato anche abbastanza rapidamente. Vedremo come andrà questo secondo fonte. Non è ancora terminata, nel senso che siamo ad oggi a 12.000, alla domanda 12.000, e ce ne sono ancora moltissime da esaminare. Sono chiusi i termini per fare domanda, adesso sta andando avanti la liquida, l'esame delle pratiche, e stanno andando avanti per le quattro banche, certo, 2015, non per questa seconda. Per allora, volevo farvi sentire un'altra cosa invece, perché sul tema delle popolari, sul tema delle Venete, Pop Vicenza e Veneto Banca, ieri c'è stato un intervento molto forte di un gruppo molto ampio di associazioni dei consumatori che contestano il decreto legge sulle banche venete nella parte in cui questo si occupa relativamente dei piccoli azionisti già clienti di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. E così hanno tutte insieme preso carta e penna e inviato questa lettera aperta alle istituzioni. Noi ce la siamo fatta sintetizzare dall'avvocato Paolo Fiorio del Movimento Consumatori. Sentite. Abbiamo rivolto un appello, una lettera aperta al governo, ai parlamentari e anche a Intesa San Paolo perché venga modificato al più presto il decreto su Veneto Banca Popolare di Vicenza. La maggior parte dei piccoli azionisti che ha acquistato le azioni non sono degli investitori speculatori, ma sono dei danneggiati, sono delle vittime di illeciti gravissimi per una vendita delle azioni scriteriata e al di fuori delle regole, così come ha accertato la Consob con diversi provvedimenti. Questo decreto consente che le attività delle due popolari, ex popolari venete, vadano a Intesa San Paolo, escludendo il passaggio dei debiti relativi alla vendita fraudolenta delle azioni. Non stiamo parlando quindi solo della posizione degli azionisti in quanto tale, ma stiamo parlando della posizione delle vittime, che rimarrebbero sostanzialmente con il cerino in mano o comunque con tempi di liquidazione lunghissimi. Noi auspichiamo che il governo, il Parlamento, intesa San Paolo, facciano un passo indietro su questo aspetto, perché i crediti risarcitori di questi azionisti non possono essere messi in secondo piano. Chiediamo che sia eliminata questa regola, che gli azionisti che sono stati danneggiati possano far valere le loro azioni nei confronti di Intesa San Paolo, che ha ereditato e ha preso il patrimonio di queste banche. In passato Intesa San Paolo aveva tenuto dei comportamenti di apertura nei confronti dei consumatori e ricordiamo le procedure di conciliazione per le obbligazioni della Parmalat e della Cirio. A nostro avviso questo tipo di iniziative possono essere riproposte anche oggi. Noi auspichiamo che il Parlamento modifichi al più presto il decreto su questo punto e individui delle soluzioni perché gli azionisti possano effettivamente avere un ristoro in tempi rapidi. Cuore e denari. Dove va questo denaro non lo sappiamo. Allora, c'è un ascoltatore che dice: ho fatto tre aumenti, ho aderito ai tre aumenti di capitale di Monte dei Paschi. Ogni volta dai vertici e dalle istituzioni si era detto che era l'ultimo. Io lo chiamo furto, la conduttrice mi dice che non siamo usciti per tempo. Allora, io qua non è che voglio fare quella che la fa facile. Quello che dico solamente è che nel momento in cui un titolo nel giro di 11 mesi, quello che è successo lo scorso anno, perde continuamente ed è evidente che non si risolleva perché la situazione è pesantissima, pur perdendo parte dell'investimento, da un'azione con molto pelo sullo stomaco, molto coraggio, molto disappunto, anche magari se hai un bravo consulente accanto, ti dice: guarda Nicola, lo so che la faccio facile, io mi rendo conto. No? Ma, vedi, io sono d'accordo con te e, come dire, sono d'accordo anche con l'ascoltatore. L'azione non va sempre in alto come fa il Nasdaq, no, in questo momento. Altro, perché c'è pure un altro lì... tema. Allora, innanzitutto c'è un tema di informazione, cioè non si può investire e poi disinteressarsi. O anche a chi si interessa bisognerebbe spiegare che bisogna evitare di seguire pedissequamente i consigli magari di chi è in conflitto di interessi. Poi c'è un tema più generale. Io mi domando se qualcuno si ricorda certe dichiarazioni di altissimi esponenti politici che dicevano che Monte dei Paschi era risanata, che investire era un affare perché c'era del valore nella banca. E quindi anche qua c'è stato, come dire, qualcuno che ha tenuto dei comportamenti che non sono stati proprio di informativa corretta. Una questione di misleading c'è anche qua. Poi c'è una questione di fondo, la questione delle autorità di vigilanza, di cui, ripeto, parleremo su Plus, che esce sabato. Allora, esco dal tema dell'MPS e vado sul tema delle venete. Nell'aumento di capitale del 2014 della Vicenza, che era congegnato in una raccolta di tre obbligazioni, di cui un subordinato convertibile, un convertibile e un titolo non negoziabile. Quindi già basta definire in questa maniera questi strumenti, esatto, per capire che se uno te li propone allo sportello. Esatto, ecco, più 300 milioni di aumento di capitale in azioni, finanziabile anche attraverso prestiti della banca ai soci che volevano aderire. In questo aumento di capitale io mi sono andato a rivedere tutto il materiale documentale prodotto. Siccome in quel periodo la banca era già sotto ispezione, sono stati prodotti per le obbligazioni e per le azioni 16 documenti. Questo cosa vuol dire, Nicola? Che la Consob ha vagliato 16 documenti, tra cui integrazioni periodiche continue ai documenti di offerta, perché continuavano a cambiare le documentazioni di base. La Consob le leggeva male? Avallava anche? La Consob su tutti, no, i documenti nel frontespizio scrive che la commissione non rispondeva delle cifre contenute. Allora la domanda è: se un risparmiatore che magari aveva già sottoscritto, si stava approcciando a sottoscrivere, doveva leggersi 16 documenti per migliaia e migliaia di pagine, se questo risparmiatore doveva fidarsi di questi documenti, la commissione di che cosa risponde a un risparmiatore che è rimasto stritolato in questo ingranaggio, se poi nel frontespizio dei documenti scrive: noi non rispondiamo della validità delle cifre contenute nel documento? Ricordo che c'è una sentenza della Cassazione della fine dell'anno scorso che ha riconosciuto la responsabilità della Consob per omessa vigilanza. E qui c'è un tema grande come una casa: la questione della responsabilità delle autorità di vigilanza nei confronti dei risparmiatori. Allora, c'è adesso non so se ce la facciamo anche con Marco a far intervenire in diretta altri ascoltatori. Sono pronti, Spedito dalla provincia di Como e Andrea dalla provincia di Livorno. Mi interessava, Marco, se ce la facciamo anche pescare Luca, che voleva di nuovo ribadire un aspetto. Lui dice non se ne parla, ma in realtà non ne abbiamo parlato più volte, che per quello che riguarda le obbligazioni subordinate, un conto è se tu le hai sottoscritte direttamente allo sportello delle emittenti, un conto se tu le hai comprate. Purtroppo allora, senza sì, farmi intervenire, in base, esatto, in base al decreto del novembre 2015, anzi del decreto che regola gli azzerati subordinati del novembre 2015, viene rimborsato solo chi ha comprato in contropartita diretta con l'istituto, neanche con altre banche del gruppo e nemmeno da terzi. Certo. Poi un attimo soltanto, torno di nuovo sulla questione delle venete, la questione delle riprofilature opportunistiche, sì, MIFID, relativa alle sottoscrizioni di aumenti di capitale o di azioni. Tanto la BCE quanto l'antitrust italiano hanno stabilito che ci sono state decine di migliaia di casi di riprofilature opportunistiche di azionisti, risparmiatori, quindi clienti. Tu diventavi un investitore un investitore esperto il giorno prima che ti proponessero le azioni, cosa che è vietata, tanto è vero che sono state sanzionate per milioni di euro le due venete. Allora cancelliamo con un tratto di penna anche il diritto, certo, di chi è stato truffato di vedersi restituire i propri soldi anche se azionista. Esatto, per non dimenticarci poi, anche questo è un aspetto prima toccato, ma ribadiamolo ancora, tutti coloro che hanno fatto questi investimenti dietro la erogazione da parte della banca di fidi, prestiti, baciate, mutui eccetera. Quindi io sì, il mutuo te lo do, però a patto che tu investa contestualmente in 5.000 euro di nostre azioni. Io ricordo il caso di una vedova di Roma con una figlia disabile a carico e un lavoro saltuario, a cui la Vicenza, per erogare il mutuo necessario a comprare la casa, propose e sostanzialmente costrinse a sottoscrivere azioni. Allora, signori, mettiamoci una mano sulla coscienza quando andremo a varare questo decreto in Parlamento, sostenendo che è immodificabile. Ma queste situazioni hanno diritto o no a essere, certo, tutelate nei confronti di comportamenti di questo genere? Allora, Luca da Rimini, l'ho evocata prima, abbiamo risposto velocemente, in 30 secondi ce la fa a ribadire questo aspetto? Ha capito la risposta che abbiamo dato? Sì, buongiorno. Io ci tenevo a sottolinearla questa cosa, perché purtroppo sui giornali, da tutte le parti, dichiarazioni di Padoan e tutti quanti, gli obbligazionisti subordinati vengono ristorati. Non c'è niente di più falso, nel senso che vengono ristorati solo coloro che hanno sottoscritto direttamente dagli emittenti, sì, sì, e peraltro entro il giugno 2014. Vorrei rappresentare che esistono due obbligazioni subordinate, emesse una da Veneto Banca e una da Popolare di Vicenza nel 2015. Mm-hmm. Quindi questo, sì, sì, lei lo legga da qualche parte, non c'è scritto. L'altra cosa, no, mi scusi, è stato scritto su Plus 24, okay, però vi prego, scusate, informatevi, abbeveratevi alle fonti corrette. Luca, vabbè, detto questo, comunque abbiamo capito, adesso lo sappiamo, detto pubblicamente da Radio 24, e andiamo a ripescare anche le date di queste due obbligazioni. Ce ne sono tante in circolazione, io non riesco a sentire perché devo chiudere. Spedito da Como, che voleva chiedere delucidazioni sul tema dei conti correnti, come funziona in caso di bail-in. Spedito non è il tema di stamattina, ci ritorneremo. E Andrea da Livorno, che dice: Monte dei Paschi ha perso il 90%, lui non si lamenta perché sapeva di rischiare, quindi non capisce chi si lamenta. Allora, avvocato Vescovini, 30 secondi, un ultimo messaggio da parte sua. Sì, sempre per tornare sulle venete, la procedura di liquidazione coatta amministrativa richiede agli azionisti e agli obbligazionisti esclusi dalle misure di ristoro di dichiarare il proprio credito entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, quindi 24 agosto. Mm. Consiglio, anche se poi questa procedura di per sé non è detto porti ad alcun tipo di risultato concreto, di fare questa dichiarazione e anche in questo caso di farsi assistere, perché non esistono modelli su, esatto, internet, non esistono cose di questo genere. È una dichiarazione che deve essere fatta in modo puntuale, dove si fa riferimento al fatto che il risarcimento di cui si chiede il riconoscimento della misura del credito deriva da una eventuale causa che dovrà essere poi introdotta. Ci torniamo, avvocato Vescovini, presto, vi saluto intanto, noi torniamo domani con Cuore Denari, buona giornata a tutti.